Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito della postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Siamo ritornati al vecchio telefono, ma siamo sempre qui con voi. Intanto ricordiamo che praticamente il governo è praticamente al suo completo, sì, perché oltre ai ministri sono stati nominati 30 sottosegretari, 10 viceministri, ci sono ancora un pochino di polemiche come al solito, perché ovviamente sappiamo tutti che qualcuno parla di manuale Cencelli, per cui tutti i sottosegretari fatti col bilancino, altri parlano di troppi viceministri, ma insomma questo qui sta nella natura delle cose. Intanto è scontro già nella maggioranza sulla convenzione per le riforme. Il neo vice ministro dell'economia Stefano Fassina dice no a Silvio Berlusconi come presidente dell'organismo parlamentare che dovrebbe cambiare la Costituzione. Dobbiamo trovare una figura in grado di dare garanzie a tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, e temo che il senatore Berlusconi non sia tra questi. Insomma, il PD non va bene che ci sia Berlusconi, infatti anche il sindaco di Firenze Matteo Renzi si dice contrario a Berlusconi, e contrario anche Luciano Violante, e dice il PDL ha già un ministro delle riforme, ovvero Gaetano Quagliariello. Ma sentiamo dal PD Francesco Boccia. Se non c'è ancora la convenzione, penso sia prematuro decidere chi dovrà presiederla. La convenzione è l'occasione che abbiamo per dimostrare che la politica si è riassunta la responsabilità delle scelte sulla vita dei cittadini. Lo ha fatto il governo con il Parlamento, con il voto di fiducia dei giorni scorsi. Ora tocca alla politica tutta, e faccio appello soprattutto alle forze attualmente all'opposizione, a SEL, al Movimento 5 Stelle, a Fratelli d'Italia, alla stessa Lega. Ci aspettiamo da loro un grande contributo per consentire a questa legislatura di essere ricordata come una legislatura costituente. Sono sovrani i partiti che dovranno ritrovarsi, raccordarsi per definire i confini di questa convenzione. Quando avremo capito quali partiti partecipano, io mi auguro tutti, a quel punto troveremo l'interprete migliore che andrà bene a tutti i partiti. E questo era Francesco Boccia del Partito Democratico. Ma il PDL ovviamente non ci sta, assolutamente non può esserci nessun veto su Silvio Berlusconi. Allora sentiamo Fabrizio Cicchitto. Ma non lo so questo, dico che la convenzione deve avere un forte spessore politico e quindi non può non avere per larga parte una presenza di parlamentari sia della Camera che del Senato, deve avere l'obiettivo di fare quello che non si è fatto nelle precedenti legislature, quindi anche con un'autocritica che va fatta sia dal PDL che dal PD. E inoltre non può non avere una presidenza autorevole del centrodestra, visto che in sostanza lei ricorderà che Bersani, non va di moda la citazione, dichiarò che col 51% dei voti il PD si sarebbe comportato come se avesse il 49%, e col 29% dei voti finora il PD si è comportato come se ci avesse l'85% dei voti e stessimo in una democrazia popolare, che non è il caso dell'Italia. E questo era Fabrizio Cicchitto del PDL. Intanto i nostri tecnici bravissimi hanno subito ripristinato il collegamento in SDN. Noi di Radio 24 vogliamo essere sempre sul tecnico andante. Allora, fin qui la polemica politica sulla convenzione per le riforme, che abbiamo detto non è ancora partita, ma già c'è scontro tra PD e PDL su chi la presiederà. Abbiamo però chiesto a Gianclaudio Bressa del PD, un esperto di riforme, come faranno invece i parlamentari a tagliarsi proprio il posto da loro stessi. Si devono ridurre di numero, il Senato deve diventare la Camera delle Regioni, insomma i parlamentari, i senatori devono decidere di suicidarsi, tra virgolette. Allora sentiamo Bressa. E questo riguarda più i senatori che non i deputati. No, battute a parte, il significato profondo della convenzione, se dovesse partire, e se dovesse essere in qualche modo ratificata con legge costituzionale, è proprio quello di dare alla convenzione potere redigente, in modo tale che il testo che esce dalla commissione, Camera e Senato possono solo dire di sì o di no. E questo è l'unico strumento serio per consentire di passare da questo bicameralismo perfetto ma isterico che abbiamo noi a un monocameralismo come hanno tutte le democrazie occidentali. Quindi lei, secondo lei 315 senatori a un certo punto diranno sì all'abolizione del bicameralismo perfetto, a un Senato delle regioni, decretando di fatto la fine del Senato stesso? Credo proprio di sì, perché siccome non sarà solo quello il voto, ma ci sarà il voto che riguarderà la forma di governo, ci sarà il voto che riguarderà la modifica dell'articolo 117, significa far saltare quella parte specifica della riforma, tutta la riforma. Credo che assumersi questa responsabilità in questo momento sia una cosa molto pericolosa. Ma la convenzione sarà composta da senatori e deputati? E da esterni. E allora noi facciamo proprio un appello a tutte le forze politiche questa volta, che questa convenzione faccia veramente queste riforme, perché tagliare deputati e senatori, superare il bicameralismo perfetto vuol dire anche risparmiare in tempo e anche i soldi dei contribuenti e dei cittadini, e che non deve finire tutto come finì la famosa bicamerale con il patto della crostata. Allora, noi, questo è il nostro appello che ci vogliamo che vogliamo lanciare qui proprio da Radio 24, però poi ci sono altre notizie. Intanto una notizia che sta a metà tra la cronaca e la politica, ed è quella che riguarda la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Molto gravi le minacce contro di lei, la Procura ha aperto un'inchiesta per minacce, diffamazione e violazione della privacy. La Boldrini infatti verrebbe minacciata di morte ogni giorno, ma oggi è stato anche invece il giorno in cui il neo ministro del nuovo governo si è presentato all'opinione pubblica. Si tratta di Cécile Kyenge, la ministra per l'integrazione, e ha detto: non sono di colore, ma sono nera. Noi la definiremo la prima ministra afro-italiana. Sentiamo Kyenge. Sono tanti anni che quando uno vive qui e ha un colore di pelle diverso, non può dire di non aver mai subito discriminazione. E sicuramente mi hanno toccato, però credo che non è quello che mi sofferma. E quello che guardo è l'intelligenza delle persone, la capacità di una persona a poter dialogare, di interagire, e non devo guardare da che parte viene. In ogni luogo, in ogni gruppo, in qualunque partito, ci sono anche persone con cui si riesce a dialogare, e probabilmente anche dai luoghi da dove vengono questi attacchi, io sono sicura che tentando di parlare si riesce a trovare un terreno di dialogo. Una doppia identità è una ricchezza, non è mai una debolezza. Io sono italo-congolese perché mi sento pienamente italiana, mi sento pienamente congolese. Io so che posso dialogare con il mio paese di origine, il mio continente, è una risorsa anche per l'Italia, non soltanto per la mia persona. Questa fa parte anche di quelle che possono essere affirmative action che l'Italia dovrebbe mettere in campo. Affirmative action, che ha fatto anche la richiesta di tante aziende, vuol dire avere tante comunità, tante persone di origine diverse, ma che riescono a dialogare con il mondo. E con questo passo credo che l'Italia vada in quella direzione, dialogare col mondo. Intanto scoppia la polemica sul neo sottosegretario per le pari opportunità Micaela Biancofiore del PDL, attaccata dai gay per le posizioni contro le coppie omosessuali. Le associazioni gay insorgono nel mirino alcune frasi omofobe nelle quali la Biancofiore definiva Berlusconi normale perché ama le donne. Lei risponde: mi discriminano. Altro argomento invece, l'ennesima violazione delle mail dei parlamentari 5 Stelle. Crescono le proteste degli hacker che si definiscono, si autodefiniscono del PD, scoppia la rabbia grillina. Sentiamo Giulia Sarti, deputata Movimento 5 Stelle, la prima parlamentare alla quale sono state pubblicate mail anche private. È successo che mercoledì 24 aprile è stato pubblicato un video da presunti hacker del PD in cui hanno annunciato che avevano a disposizione circa una trentina di caselle di posta di parlamentari del Movimento 5 Stelle, e c'è stata una sorta di ricatto in cui se i redditi di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio non venivano pubblicati e non venivano resi pubblici, sarebbero state rese scaricabili una volta a settimana le caselle di posta di noi parlamentari. La prima casella di posta resa pubblicabile è stata la mia, e si tratta della mia casella di posta personale. Ma che cosa sospetta allora? Perché c'è questo gioco al massacro? Perché continuano a pubblicare le mail dei parlamentari del Movimento 5 Stelle? Questa è una violazione gravissima, perché probabilmente cercano di dimostrare che la rete è uno strumento pericoloso e che noi non dobbiamo utilizzarla per il nostro lavoro, ma di voler colpire in qualche modo e di rendere ricattabili persone acquisendo degli archivi su di loro. Questa cosa è inammissibile. Però lei che cosa sospetta? No, io non sospetto nulla e ho piena fiducia nel lavoro della magistratura e della polizia postale, che stanno già intervenendo d'ufficio. Sono intervenuto d'ufficio già dalla scorsa settimana, perché si tratta di estorsione. Fino adesso non è stato pubblicato niente, cioè loro l'hanno pubblicato sul sito, ma la stampa non ha ripubblicato queste mail. E ovviamente no, ma questo non c'entra, perché gli articoli che sono usciti in tutti questi 10 giorni da testate come Libero o L'Espresso, che danno pubblicamente voce alla notizia, il mio riferimento in particolare agli articoli di Libero usciti domenica scorsa, sono sicuramente atti che esulano dal giornalismo. E scusandoci ancora per l'inconveniente tecnico, un saluto da Radio 24 e da Elisabetta Fiorito.